La prostata, per curarla bisogna trombare! Guarda, Cruciani ha una prostata meravigliosa che viene esibita ai congressi medici per dire come si deve tenere la prostata. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Porca troia, ma è possibile che capitano tutti a me? Carico in centrale, porto questa, c'è la trasmissione d'eccellenza in onda, sto ascoltando, volume moderato, lei che cazzo fa? Prende il telefono, comincia a telefonare e senza neanche parlare con il movimento delle dita mi fa, voleva dire abbassa. E ho detto, non ho capito, può abbassare? E ho detto, qua non si abbassa un cazzo, lei chiami, telefoni, parli, io ascolto la mia trasmissione, la zanzara. Bravo, bravo questo tassista, caro Parenzo, bravo questo tassista, bravissimo, bravissimo questo tassista, che gliene frega? Ha perso un cliente, male. Personale. Anch'io quando in genere salgo in taxi c'è una roba che non mi piace, dico abbassi. Ma no, ma quello stava al telefono, che c'entra? Beh, certo, come telefono, quando sono al telefono non voglio altre voci sotto. Comunque, non ho capito, ma se stavano ascoltando magari Parenzo, Ma lo stesso, gli dico, quella magari stava al telefono con la mamma, con l'amante, non voleva sentire le nostre diatribe o diatribe, che dirsi voglia. Ma sei impazzito, ma bravissimo il tassista. Ma si è fatto un danno lui, economico lui. Ma quale danno? Ma quando mai? Allora ragazzi, il governo si contraddice sul referendum e sul rinvio del referendum, c'è veramente da scompisciarsi dalle risate. È vero che oggi Renzi qui a Radio 24 ha detto che sono tutte cazzate, che non ha detto così naturalmente, che il referendum si farà regolarmente all'inizio di dicembre, che sono cose surreali l'ipotesi del rinvio del referendum. E allora spiegatemi perché il suo ministro Alfano non più tardi di qualche ora prima se ne usciva con codesta frase. Perché? C'è qualcosa sotto, Parenzo? Stanno forse preparando il terreno per qualcosa? No, certo, è una posizione personale di Alfano, credo. Ma che vuol dire? Quello fa ministro degli interni? Non è che uno... Pronto, scusi? Non è la posizione del governo. È un passante? No, non è il passante, ma è anche il leader di un partito. Ma uno sulla data del referendum, parole in libertà da parte di Alfano. No, in libertà parla anche da leader di un partito. Lui è sia ministro degli interni che leader di un partito, ragazzi. Quindi ha fatto questa proposta. Ha detto questa cosa, non ha detto il nome del governo, Mamma mia, che è? Scusa, è il ministro degli interni. Ho capito, ma è anche segretario di un partito. Peraltro un po' abusivo, anzi direi abusivo. È anche segretario di un partito. Sì, partito? Che c'è un partito? Certo, sulla carta è un partito. NCD vale il 3,5%, il 4% adesso non lo so. Sondaggi davano 3,5% ieri, l'altro ieri. I sondaggi che ho visto davano il 3,5%, quelli dati. E se Berlusconi dovesse dire, posticipiamo... Qualora una parte dell'opposizione fosse disponibile a valutare una ipotesi di questo genere, io sono convinto che sarebbe un gesto da prendere in altissima considerazione. Ma lo hanno detto anche esponenti del Partito Democratico, per esempio, che ne so, il nostro amico, come si chiama, Esposito, ha detto, ma in questa situazione, con il terremoto, come si fa a votare, ragazzi? Non diciamo cazzate. Per fortuna è arrivato Renzi, Non è che resta resta un mezzo pasticcio, quelli che dicono forse si può, non si può. Poi Renzi ha chiarito tutto. L'ipotesi dello spostamento del referendum però non esiste, punto. E del resto, da quello che ho capito, Alfano l'aveva messa in tono dubitativo. Indipendentemente da come è stata messa da lui e da altri, non perdiamo tempo in queste vicende, cioè... Ma però c'è da dire un'altra cosa, che addirittura Alfano aveva detto non è più prioritario il referendum. Cioè, rispetto, secondo lui, al terremoto, che per carità è importantissimo, a molta gente interessa più il terremoto, soprattutto a quelli di quelle zone, piuttosto che il referendum, su questo non c'è dubbio, ma non ce lo deve dire Alfano, è così. No, no, è che Alfano si è posto il problema di capire come... Ma perché tu prendi veramente in seria considerazione queste cose qua? Come se fossero delle cose... Con rispetto della politica, penso che sia questo... Ma non è rispetto, ma sono delle cose dette strumentalmente. Si pone il problema anche di come garantire il voto nelle zone terremotate. Alfano ha una sola preoccupazione quando si alza la mattina: garantire la sua poltrona. Non c'è nessun'altra preoccupazione. Ed è legittimo anche quello, come fa qualunque leader di partito, Grillo, chiunque. La poltrona dei 5 Stelle, il potere dei 5 Stelle, legittimo. Sentiamo Alfano. Non è più la priorità il referendum, ma questo credo che sia nel cuore degli italiani, non nel cuore del governo, nella testa del governo. Sgarbi invece dice rinviare il referendum. Sgarbone, che ovviamente non conta, però non capisco cosa passa in testa a Sgarbi, rinviare il referendum. Ma che cazzo vuol dire? È veramente una follia. Cioè, in Italia succedono tantissime cose. Certo, il terremoto è una cosa grave, eccetera, però riguarda, con tutto il rispetto... poche migliaia di persone rispetto agli abitanti dell'Italia. Ma cosa c'entra il rinvio del referendum? Non c'entra nulla. Uno non dovrebbe nemmeno pensarci. Se tu ci pensi, sei in malafede. No, siamo d'accordo, ma anche qualcuno del no. Lascia perdere Sgarbi, che non c'entra niente. Anche qualcuno del no ha detto in questo sì, clima. Ma se uno ci pensa, ma quale clima? Non c'è nessun clima. Quando c'è una catastrofe, ma non c'è come questa, c'è una catastrofe limitata. Migliaia di cittadini. Questi qua devono essere messi, devono essere messi nelle condizioni di votare. Giustamente il ministro degli interni. Esatto, si è fatto. No, non si è fatto lui la domanda. Ha detto che dobbiamo garantire a queste persone, oltre che la tenda e la casa. Ha detto che se l'opposizione è d'accordo lo rinviamo, questo è il punto. Certo, non è che hai una cosa così scandalosa. Una puttanata. Se anche l'opposizione è d'accordo, è d'accordo, Renzi neppure, si va al voto tranquillamente. Ma è giusto chiederselo. Ma non è giusto chiedere, perché se te lo chiedi significa che tu hai tutto l'interesse, perché la realtà, ma perché? La realtà è una sola, che l'interesse è quello che, siccome no in vantaggio, se tu lo rinvii qualche mese, magari hai più possibilità di vincere. Ma questo mi pare evidente. Non si fanno questi calcoli. Si fanno sicuramente. Ma nel merito ci sarà questo più altro. Ma e quelli del no, allora perché avrebbero interesse a rinviarlo? Non lo so con chi pari. Brunetta non la pensa così, Brunettone. Comunque Sgarbi, sentiamo. Questa volta io ho mostrato fiducia nelle parole del Premier per molte ragioni, a parte il suo desiderio di un consenso che serve al referendum, che sarebbe da immaginare forse di rimandare in questa situazione, ma insomma quello che accade. Brunetta. Da folli e irresponsabili parlare di rinvio del referendum. Il Papa forse ne ha detta una giusta, caro David. Forse, perché poi se le parole del Papa sono sempre interpretabili in mille modi, perché da una parte ha detto che gli immigrati vanno accolti. Sì. Cioè, sostanzialmente le parole che dice il Papa non contano un cazzo. Questa è la realtà. Perché non contano nulla, niente, zero. Si possono interpretare in un modo o nell'altro, come nel caso dei gay, no? Ti ricordi quando disse dei gay, cos'è che disse? La frase famosa sugli omosessuali, che adesso sono incoglionito, non me la ricordo. No, ma disse, non ha mai detto che sono fuori dalla comunità cattolica. No, cosa anzi. Disse? Una frase famosa sui gay di Papa Bergoglio. Chi sono io per giudicare? Bravo, esatto. Sì. Poi però una battaglia contro il matrimonio. Cioè, ogni volta che parla il Papa, dice una cosa, si può interpretare in un modo o nell'altro. Meglio non calcolarlo sarebbe. Però parliamo di questa cosa del Papa, che ha detto: è imprudente ricevere più di quanti si possano integrare. Cioè, ha detto: ragazzi, dobbiamo accogliere gli immigrati, però fino a un certo punto. Così sembra dire il Papa, uno poi può dire sti cazzi, e io personalmente dico sti cazzi. Comunque, non è umano chiudere le porte, non è umano chiudere il cuore, e alla lunga questo si paga, come anche si può pagare politicamente una imprudenza nel ricevere più di quelli che si possono integrare. Cioè, hai capito? Mette, come si dice, no? Sì, un colpo al cerchio e uno alla botte. No, ma non mi pare invece assolutamente. Io l'avevo letta, un conto è letta, un conto è sentita. Sentita, lui cos'è che ti dice? Il dovere primario è quello dell'accoglienza, e poi capire chi ha diritto e chi no. Ma no. E soprattutto. Che ci vuole il Papa per dirci una cosa del genere? Ci vuole il Papa? Lo sapevamo già ma prima. Ma è quello che infatti si sta facendo. Lo sapevamo già prima. È esattamente appunto, quello che sta facendo. Ha detto sostanzialmente però una cosa inutile. La prima cosa è accogliere. Ma dai. La prima cosa è accogliere, ha detto. Ma dai. A proposito, l'amico Fogli, il proprietario dell'albergo Lori lì a Ficarolo. Ah, mi ha detto delle balle colossali, ha detto. Io ho letto l'intervista del prefetto. Quello oggi che ha trattato col prefetto, appunto, sì, fino all'ultimo. E alla fine si è tirata indietro. Però resta un principio: la proprietà è un privata burlone, un burlone. Non si deve toccare la proprietà privata. Tu nessuno puoi l'ha anche toccata, fottere lo Stato, dirgli sì, voglio accogliere gli immigrati, datemi soldi. Poi all'improvviso puoi dire anche no, ci ho ripensato. Hai tutto il diritto di fare il cazzo che ti pare con la proprietà privata, fino all'ultimo, anche di fronte allo Stato. E non mi possono requisire l'albergo. Non mi Ma posso. Non hanno requisito proprio niente. Come infatti no? Il decreto è stato emanato di non il hanno decreto, requisito il provvedimento, quello che è. Dopo che lui aveva fatto richiesta, no, e soprattutto dopo che perché lui, questo Lori, il furbetto, non era Fogli, neanche nel Fogli bando iniziale. Vabbè, questo Fogli perdere. Ma no, ma i dettagli sono tecnicismi, ma non corno sono tecnicismi. Senti, c'era un dice bando che la prefettura ha fatto, a cui questo qui non aveva aderito. E chi se ne frega? Si accorge a naso che può fare l'affare, vabbè, quindi allora extra bando. E allora, a un certo punto loro hanno mandato il decreto che e poi che sarà cosa? Tra l'altro ma la cooperativa. Io posso fare quello che voglio fino all'ultimo se non ti dico di sì. Tu a casa mia, se non ti dico di sì, non c'entri. Non fai un decreto di requisizione dell'albergo. Fino all'ultimo secondo posso dire di no. Mi posso permettere di mandarti a fare in culo fino all'ultimo secondo? La a te proposta stato che vuoi requisire l'albergo. La richiesta di requisizione mai sarebbe scattata non senza una proposta iniziale dell'albergatore. Ma non mi interessa, ma che vuol grazie dire? Ma guarda che roba da pazzi, guarda. Senti che dice, senti che dice. Noi siamo preoccupati. Non so quando arrivi, non so cosa devo fare, non so niente. Ma se dovessero arrivare, signor Luigi, lei cosa farebbe? Ma devono buttare giù il cancello, con me compreso, e poi dovranno buttare giù la porta d'entrata e poi dovranno fare non lo so che cosa. Parli lei. Ho già detto al prefetto che mi sta rovinando perché le mie tre strutture esatto sono finite oramai. Il problema della zanzara è il traffico. Stufe e caldaie Termorossi, una promessa di calore per un amore di casa. Vi presento la zanzara. Lorenzo, ti stimo, ma non cominciare così, perché sennò te via un sciopon. Un bacio. David, l'Italia civilizzata è con te. Vai! Arenzone, come lotta, come lotta! Top assoluto. Parenzo, ti vogliamo così, duro. La famosa maggioranza silenziosa, certo, che ogni tanto si sveglia naturalmente, no? No, ogni tanto si sveglia. Cioè, io la conosco, li conosco tutti. Sono troppi, quindi non li conosco tutti uno a uno. Voglio che carichi questa maggioranza silenziosa. Voglio che la carichi col tuo solito pippone delle 18:48. No, loro vogliono essere rappresentati da una forza tranquilla, avrebbe detto Mitterrand. È la forza tranquilla, quella che non si arrabbia. Sì, è quella degli stessi signori magari che hanno dato la bandiera dell'antifascismo agli immigrati là dalla caserma di Milano, la caserma Montello di Milano. La sinistra dà ai profughi la bandiera dell'antifascismo. Questi non sapevano un cazzo, ovviamente, no? Hanno preso una bandiera dove c'era scritto comitato antifascista, ma non sapevano nulla di quello che c'era scritto sopra, nulla. Io una telefonatina al signor Fogli per capire un po' come vanno le trattative col prefetto. Ma chiamiamo Riccardo Fogli, che almeno è più intelligente, è buono, canta una canzone, no? Sto Fogli qua che come furbetto vanno le trattative col prefetto per accogliere furbetto, gli immigrati? Un furbetto, dai, un furbettino, un furbettino, furbetto, smascherato. Un furbetto. Proprietà privata sempre da tutelare, ma quasi, sempre! Ma infatti, tutelatissima. Lo pagano, sai, non è che glielo requisiscono come troppo dovrebbe. Poco, troppo dovrebbero poco requisirglielo, dovrebbero requisirglielo e neanche pagarglielo, altro che invece glielo pagano. Pronto? Pronto? Sì. Fogli? Sì. Senta, buonasera, sono Cruciani. Ieri sera mi parla? Mi chiamo Cruciani, buonasera. Io non so lei chi sia. Mi chiamo Cruciani. Cruciani non vuol dire niente. Cruciani della non so. Cruciani del Sole 24 Ore. La signora Castagna. Signor Cruciani, mi scusi, eh. Mi dica. Lei mi telefona con un numero privato. È perché purtroppo dall'ufficio partono ma solo. Lei potrebbe essere anche Rina, eh. No, adesso Rina, amico mio, Rina, e non solo Rina, sì. Per carità. No, ma faccio una battuta, se me lo permette. Sì, no, per non carità, so, ho non capito. Non posso correre, ma non posso neanche eventualmente domani sapere chi è. Chiami dal centralino. Allora, la chiamo con un numero scoperto, due secondi. Okay. Due secondi. Ok. Mamma mia, questo che palle, ma chi sei? Il Papa, chi sei? Oh, andiai, su, dai, Totò Riina, Fogli, su. Riproviamo, dai. Numero scoperto, mi raccomando. Pronto? Ha visto? Tutto a posto? Luciani, lei permette che in queste situazioni e in questo momento non posso... Per carità, lo capisco. Grazie. Senta, ieri abbiamo sentito l'onorevole Castaldini del Nuovo Centrodestra, il partito di Alfano, che ha detto che lei ha continuato a trattare fino all'ultimo con il prefetto, dunque sta facendo sostanzialmente Luciani, il furbo, questo ha detto lei. Dica. Luciani, posso dire una maialata? Sì, prego, dica. La Castaldini ha detto tante minchiate che ne ha detto un pozzo. Cioè? Che qual è la maialata che ha detto? Scusa. Tutte quelle che ha detto, quella che mi ha riferito, io non ho continuato assolutamente a trattare. E così ha detto, fino all'ultimo, lei ha detto, ho parlato con lei può dire quello che vuole. Anche il prefetto lo ha detto, veramente. Ha letto oggi cosa hanno scritto lì Rovigo oggi, i giornali, dai, su, no, basta. No, non leggo più i giornali. Fa male. Perché non legge più i giornali? Perché non ce la faccio più. Perché dicono un sacco di cazzate? Lei ha fatto il furbetto. No, lei è un furbetto. Perché... Lei è il furbetto non del quartierino, ma dell'alberghino. Lei è il furbetto. Parenzo, lascialo parlare un attimo. Lei dai. È il furbetto dell'alberghino. Ma non è vero, non è vero. Arrivederci, no, aspetta, Fogli! Quella bocca che hai, quella bocca. Non ti tieni niente. Qualche volta non riesci a trattenerti proprio, non ce la fai fisicamente. No, ma con l'educazione gliel'ho detto, perché mi sembra con l'educazione, ha fatto notare che con l'educazione gli hai detto il furbetto dell'alberghino. Furbetto, che va bene, ma furbetto quello non vuole scherzare, no? Cioè, ne ha pieni coglioni. Quello che scherzare. Gli vuole mandare il prefetto che gli vuole mandare i clandestini, quello che non vuole. Pagandolo. Clandestini. Profughi pagandolo. Profughi, bisogna vedere se sono profughi. Profughi pagandolo. Bisogna sempre vedere. Pagandolo, ma uno perché? Io non voglio i soldi. Quindi voglio... non è requisito. No. È pagato. Zanzarosi, contattateci all'800 24 00 24 o via WhatsApp al 393 71 71 701. Allora Massimo da Roma, vai, iniziamo, vai Massimo. Ciao. Sì, dimmi, Massimo. No, niente, io... Sì, però amico mio, sei in viva voce. Questione... Ma non mi fare incazzare col viva voce, con le cose, dai, su. Dai. Io volevo intervenire sulla questione dei clandestini. Allora? Secondo me, niente, noi stiamo istruendo Miss Barcona, ci selezioniamo direttamente a Lampedusa e volevamo praticamente, praticamente siamo un gruppo, abbiamo organizzato questa Miss perché vogliamo che le ragazze che arrivino... Ne arrivano poche di ragazze, ne arrivano poche. Infatti noi vorremmo più donne, non siamo come Parenzo, che stupidaggio. Che le donne, più donne immigrate che arrivano per fare Miss Barcona. Pensa che puttana. Tu hai pessimo gusto. Dobbiamo fare un'integrazione, scusa. Si comincia con piccole cose. Sì, Miss magari... Miss Barcone. Potrebbe anche essere un'idea simpatica, per carità. Miss no, Barcone. Perché... Miss Barcone 2006. Le vediamo dopo tutte con queste facce nere incazzate. Invece sono certo. Una battuta di pessimo gusto. Belle ragazze. Lo so che a te a Parenzo non piacciono queste cose. No, ma è una battuta stupida di pessimo gusto rispetto a chi affronta la morte pur di arrivare in Italia. Quindi voglio dire, se lei vedesse in che condizioni arrivano qui. Quindi tutte queste cavolate, no? Non è di pessimo gusto. Vabbè, Massimo, ho capito che vuoi fare. Raffaele Brindisi, vai. Raffaele, buonasera. Dimmi. Qualche secondo fa ha dato la sua sentenza su quello che è successo con l'albergatore. Cioè, sa tutto lui, tutto Parenzo. No, sa. Ho letto delle carte, guarda, le pubbliche, ce le ho qua, le carte del prefetto, ciò. Le ho lette, poi lei giudica, guarda, me le hanno mandate, le legga parola per parola e così vedrà se ho ragione o torto. Anche se ha continuato a trattare, vedete voi, io non è che ho ragione, vi sono fatto mandare apposta per capire le cose le carte, ho letto queste tre paginette che ora pubblico su Twitter, ma anche se uno, voi le vedete, se uno alla fine, e giudicate se ho ragione o se sono ideologicamente uno prevenuto. Può trattare fino all'ultimo e poi mandare a fare in culo il prefetto. Ragazzi, non è capito ancora, c'è intanto una legge, secondo c'è quel che c'è scritto in beh sì, c'è una legge dello Stato che prevede che tu prevede, possa requisire in sbagliato, caso di necessità, sbagliato, a fronte del fatto che lui aveva chiesto di partecipare a un bando al quale non era neanche ammesso inizialmente, perché questo è, lui non era neanche dentro questo bando. Vabbè, dopo. Domenica, ore 14:30. Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate, sarebbe un peccato. Parola di Bond, James Bond. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. Stazioni di servizio Costantin, se ti fermi, ti conviene. Vi presenta La Zanzara. I'm a real wild one. Wild. Ciao, allora ho appena fumato due cannoni, uno di cioccolato e uno di erba di un mio amico, e no niente, stavo pensando che la Zanzara è veramente l'unico cazzo di spazio dove la gente può dire veramente il peggio di sé, comunque va, non so, va bene tutto, cioè alla fine è l'unico spazio in Italia dove io stacco il cervello per quell'ora e mezza e niente, dai. La Zanzara è la Zanzara, appunto. Questo sarà fatto, mi pare chiaro. Mi pare chiaro che sarà fatto di un... sarà fumato qualche canna, dai, su. Roba facile, normale, dai. Facile. Allora, circola da qualche giorno sul web questa roba qui della moschea in Sud Tirolo. Non so se hai ricevuto anche tu, Parenzo. No, tu non ricevi queste cose. Tu ricevi messaggi solo da Zagrebeschi, da altre persone. No, purtroppo non mi scrive il professor Zagrebeschi, però. No, per dire, gira una cosa sulla moschea che apre in Sud Tirolo. Ragazzi, ma veramente vi fa ridere questa roba? Io la mando in onda, perché io l'ho sentita mille volte e non mi fa ridere per niente. C'è qualcuno invece che me la manda di continuo, dice: guarda, hai sentito questa qua? Hanno deciso di aprire una moschea in Sud Tirolo, nel Tirolo, dove cazzo è? Senti che hanno fatto. Bah, a qualcuno fa ridere, a qualcuno. Ti ha fatto ridere? Neanche un po'. Cioè, me l'hanno mandata tipo per 10 giorni di seguito. Neanche un po'. Ma anche amici miei su WhatsApp, senti qua, una moschea che apre in Sud Tirolo. Ragazzi, fate una cosa più degna, no? Strappateci un, non dico una smorfia della bocca, un movimento della bocca. Diretta Rai oggi, diretta, poi dice che il Vaticano non conta, non so se il Vaticano c'è, sull'apparizione a Međugorje, veggenti, la Madonna, non so il cazzo, robe pazzesche, ma ancora credete a Međugorje? Vabbè, che alle apparizioni, alle veggenti, ma dai, quello fa male a nessuno, cioè, è come pensare, è come è credere, la fede, va bene, è come credere al Divino Telma, dai, ma, su, no, ma come si almeno fa, il Divino Telma lo tocco, a me lo posso toccare il Divino, chissà quale malattia prendi, appunto, è pericoloso, adesso che c'è, il Divino lo posso toccare, sta lì, fa la sua parte, dice, parla col plurale maiestatis, fa i suoi vaticini, eccetera, almeno esiste. esiste. È una tradizione secolare, dai, come si fa a dire la Madonna di Medjugorje? Tu pensi? Ma certo, io poi come ma sai, io devo rispettare la Madonna di Medjugorje. Ma assolutamente sì, dovresti. Ma assolutamente sì, milioni di fedeli. Ma perché bisogna offendere chiunque? Perché tarai, io non sto offendendo nessuno, ho detto che non ci credo. Chi offende? Uno può andare anche, ti ripeto, possiamo credere al divino Telma, possiamo credere all'altro, numerologo, che è quello che ogni tanto chiamiamo. Quello là di Firenze, là, come si chiama? Il mitico il faraone nero. Il faraone, puoi chiedere il faraone nero. Ma quello è un evidente spostato. È una persona sottoposta a TSO, al trattamento sanitario obbligatorio. Mi auguro che Nardella abbia firmato il provvedimento. Cioè, quello lì è un matto, dai. Come si fa a mettere su questo piano? Ma come no? Per me il faraone nero è uguale alla Madonna di Medjugorje. Uguale, identico. Cioè, almeno però il faraone nero ci posso parlare. Lì invece l'apparizione. Ma ci puoi parlare? Ma puoi parlare? Ma puoi parlare? Con qualunque matto puoi parlare. Appunto, cioè, voglio dire, anche almeno con... ci parlo. Ma non ci devi parlare con la Madonna di Medjugorje. Devi che se ci credi, appunto, vai lì, veggenti, fai le tue. Ci sono i veggenti, cioè quelli che fanno da intermediari tra la Madonna di Medjugorje e i fedeli. Ma sai, dai. Miriana è arrivata attorno alle 8, 8 e 5. E alle 8.34 in punto, quindi circa 20 minuti prima delle 9 del mattino, è caduta in estasi durante la preghiera e l'estasi abbiamo calcolato è durata quasi 5 minuti. L'estasi, Miriana, ma di che parliamo? Dai, David, anche tu l'estasi. Io posso ammettere, anche se sono ateo, che uno creda, no? Vabbè, per carità, milioni di persone credono, non è che posso pensare di essere l'unico intelligente, no? Nei confronti di un credente, perché sì, non mi per carità, certo. Uno può credere, assolutamente. Ma la Madonna di Medjugorje e Miriana la veggente, che entra in estasi. Dai, l'estasi no! E la Madonna ha lasciato un messaggio particolarmente lungo dove ha detto di essere particolarmente gioiosa per questa apparizione e di considerare queste apparizioni come un dono di suo figlio Gesù per tutti noi, per tutta l'umanità e per tutti coloro che ancora dovranno venire molti qua. Non ho capito alla fine qual è il messaggio, non ho capito, cioè qual è il messaggio? Almeno dacci un messaggio, no? Posto che sia... accertata che è una truffa, cioè questa è evidente che è una truffa, la veggente, non lo dico solo io, almeno dacci un messaggio normale, concreto, cioè un messaggio, che ne so, dopo domani ma non è che... ma dai, un messaggio della Madonna attraverso la veggente, ma stiamo scherzando o stiamo parlando sul serio? Ma eppure, non lo so, io sai, non sono esperto milioni di persone che vanno a Medjugorje, eppure dobbiamo assistere alla diretta Rai, perché ci sono evidentemente centinaia di migliaia di persone che vanno a Medjugorje a sentire la veggente che fa da intermediario tra me, credente, e la Madonna. E vabbè, se per te tutto questo è normale, va bene, va benissimo. Tante stranezze ben più grandi è di questa qui. È meglio il faraone nero, è almeno è più concreto, dice le sue cose. Io credo di più al faraone ma nero. Ma come si fa a dire una cosa piuttosto simile? Ma come no? Ma come si fa? Chiaro. Ma come si fa a credere a un signore che si chiama faraone nero? Che fa previsioni guardando nel bidet, ma qui è un personaggio dall'animo putrefatto, ma è un perché è un disturbato, dai, è un disturbato mentale. Vabbè, ho capito, ma almeno ha letto la Bibbia sui fumetti. Io non lo so, ma esiste bene, però, esiste o no? Esiste ma o no? Esiste, come esistono milioni di matti al mondo. Esiste, ma invece la Madonna di Medjugorje esiste secondo me? È come dire una tradizione esiste. Secolare. Qualcuno ma l'ha mai vista la Madonna di Medjugorje? L'ha mai vista qualcuno? No, ma non cosa c'entra? Già hai risposto con questa cosa qua. Qualcuno l'ha vista? Nessuno. Qualcuno l'avrà vista evidentemente. Ma quando? Adesso... Ma chi l'ha vista? Chi? Come? Quando? Perché? Dai. Vabbè ragazzi, dove andiamo? Lamberto, provincia di Monza, dai. Sì, ciao Giuseppe, mi senti? Sì, come no, certo. Benissimo, io sono un albergatore. Ottimo, dove? Ascolta, ho 69 anni. Sì. E da che mondo è mondo... Questo lo dico all'illuminato tuo collega Parenzo, sì. Senza offendere, è illuminato probabilmente. Sì, sì, allora, illuminato, dipende. Io in l'ambiente posso parlare col prefetto per 6 mesi e poi all'ultimo giorno, all'ultimo minuto, non firmo il rilascio del mio ambiente venduto a chi? Alla cooperativa o allo Stato? Se io non firmo, il prefetto... non può fare nulla. Questa, Parenzo, è la legge. Ma tu certo, parli tanto certo. di legge. Ma sì, ma infatti questa evidentemente, evidentemente ha qualcos'altro in mano il prefetto. E infatti non mi risulta ci siano i carabinieri e la polizia lì davanti a quell'albergucolo là. Se il prefetto ha in mano una firma di questo albergatore, non c'è bisogno di requisire l'albergo. Va in tribunale e subito si fanno i rogiti. Perché è così che funziona. E allora, infatti, quindi la polemica su che cos'è? Non ho capito. No, Lamberto, aspetta, al di là delle questioni tecniche, tu non ci frega nulla. Lamberto, beh, no, sono importanti le questioni tecniche a questo punto. Perché la questione è molto semplice. Tu fai l'albergatore. Che cosa ci vuoi dire? Che la proprietà privata, ovviamente, che è sacra. Ma lo è per la Costituzione. Ma infatti, lo sappiamo come nell'Unione Sovietica, se si ricorda Parenzo. Ma quale Unione Sovietica? Ma di che cosa sta parlando? Ma non c'è infatti nessuna Unione Sovietica, perché come lei sta ricordando. Mondo è mondo che ti possa prenotare e portarti via l'albergo. L'albergo è mio e lo gestisco io. E nessuno glielo porta via, infatti. Beh, ci mancherebbe altro. Ma nessuno me lo porta ma via. Ma chi glielo porta via? Ma nessuno. Ma chi glielo porta via? Ma non diciamo stupidaggini, su. Credi che con le tue paroline accontenti tutti. Lamberto, ho capito benissimo. Piermarco Cesena, vai, Piermarco. Piermarco. Sì, no, non sono Piermarco, sono Marco, ma Marco, lo stesso, non cambia niente. Sono a casa al volo. Una persona così poco intelligente come quella che c'hai lì di fianco, No, ma non si butti così giù. Lasciarlo parlare, interrompe no, tutti ma in non maniera si, ma non si butti così giù, come, su, dai. Di continuo non lascia parlare. No, ma vabbè, dico a lei, non si consideri poco intelligente, sentiamo cosa ha da dire prima. Okay, parlo di lei, cosa, ovviamente. Aspetta, fermo. Sempre Marco. Te, sempre ragione te, cavolo. Ma che volevi dire? Che volevi dire? Volevo dire, è successa una strage oggi. Che strage? Un poliziotto che ha ucciso due figlie e la moglie, e si è ucciso. Sì, ho visto. Perché sì, aveva debiti di gioco. Io vorrei evitare tutti quelli prossimi che dovranno fare questo, anziché scaricare la pistola sui suoi familiari, che andasse davanti al Parlamento, ne prende tre o quattro a caso, fanno subito una legge che mettono a posto il gioco d'azzardo, lo tolgono. No, non ho capito. Allora tu proponi, se uno ha problemi di, a parte che stai trattando quella tragedia come se fosse nulla, naturalmente. Comunque, quel tizio, aspetta Marco, scusa, tu proponi, invece di sparare alla donna, alla moglie, ai figli, che è una follia naturalmente inaudita, era meglio se lui andava, no? Giusto? Questo stai dicendo, no? Emilio, lui andava di fronte al Parlamento, accoppava due o tre deputati, due o tre parlamentari. Due o tre a caso. Prende bene. E perché, per quale motivo doveva ammazzare? Perché dopo fanno subito una legge per eliminare tutte quelle macchinette del caso. Ma che non bisogna eliminare. Non bisogna eliminare niente. Io sono a favore del gioco d'azzardo tutta la vita. Non bisogna eliminare niente. Quello è adulto, consapevole, può rovinarsi la vita come vuole. Purtroppo è adulto solo anagrafe. Ma poi, scusa, ma che cazzo. Ci sono milioni di persone. Ma va bene. Beh, su questo adesso non su ammazzare nessuno. Perché però scusa, Marco, stai dicendo di il gioco d'azzardo. È un altro discorso. Però stai dicendo che quella dovrebbe andare in Parlamento ad ammazzare delle persone. Ammazzare delle persone a caso. Scusami, chi ha più intelligenza ne deve usare di più. Chi più ne ha ne usi. Ciao. Hai capito? Ciao. Cruciani, sei un miserabile, un gretto. Morirai da solo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Pneumatici invernali Yokohama V905. Metti i tuoi sensi in contatto con la strada. La Zanzara. Mamma mia, Crucia, ho inaugurato il mio nuovo sgabellino da water. Faccio certe cagate a 30 gradi che so la fine del mondo. Cazzo, se siamo al top. Stiamo arrivando! Siamo a più uno! Vai, Donaldone! Cruciani, Parenzo, ho un'idea! Invece di usare gli alberghetti, proponiamo ai prefetti di usare tutti i bed and breakfast italiani con Airbnb per i clandestini. Santini. Parenzo, portateli a casa tua i musulmani con la sottana. Allora, quali sono i problemi dell'Italia adesso? L'immigrazione e il terremoto. Ragazzuoli, uno risolve l'altro. Allora, prendiamo tutti questi bei ragazzoni, che mi pare che siano tutti belli in carne e in forma, visto che ce n'ho anche vicino casa. Li mandiamo tutti nelle zone terremotate, per carità, mica a fare gli schiavi, li paghiamo, facciamo una bella cooperativa dello Stato, li paghiamo il giusto, si mettono lì, danno una mano, ricostruiscono, eccolo là, abbiamo trovato il lavoro per gli immigrati e la soluzione per la ricostruzione del terremoto, eh? Parenzo, ma perché devi fare il finocchio con il culo degli altri? Ma dai del tuo, smettila di rompere i coglioni. Se io casa mia la voglio dare, la do al prefetto che se la prenda in culo, hai capito? Senti Parenzo, perché una sera, anche stasera, non ti prendi 5 minuti di tempo della trasmissione, tanto non mancano, e ci illumini, ci descrivi nel dettaglio cosa fai di concreto per gli extracomunitari, per gli immigrati che arrivano clandestini con i barconi? Perché vorremmo saperlo tutti, visto che pontifichi tanto sull'accoglienza, perché a questo punto, oltre alle parole, vorremmo capire i tuoi fatti quali sono. Dai, illuminaci. Illuminaci la via, così poi tutti noi ti possiamo seguire. 18:48, no, noi abbiamo bisogno di te, Parenzo. Io sono appena uscito dall'università, sono un ingegnere nucleare e ti supportiamo, forza, forza Parenzo, però vogliamo caricarci, cazzo. Zanzara Collection. Però ci sono moltissimi messaggi pro Parenzo, moltissimi, devo dire la verità, sono aumentati a dismisura negli ultimi giorni, certo. Sono aumentati a dismisura. Ma a dismisura. No, io non ho dubbi, le so, li conosco, li vedo per strada, intanto è stato pubblicato, da sottoscritto, l'ordinanza del prefetto della provincia di Rovigo, sul mio profilo Twitter, potete trovare cosa dice di nuovo, premesso che cito tutte le leggi, eccetera, eccetera, ordina. Mi piace quando lo Stato dice ordina. Tu non hai idea quanto mi piace quando lo Stato dice ordina. Mi piace perché è lo Stato. Non è Donato da Varese, non è Mauro da Mantova, ma è lo Stato, l'autorità suprema su cui si regge lo Stato di diritto. Bene, dice, ordina il prefetto. Quanto godi, io sono, guarda io. Il prefetto di Rovigo ordina! Scritto grande, poi in neretto. La requisizione dal 1 novembre 2016 al 30 aprile 2017 del citato cazzo, lo dico io, lui non lo scrive, Hotel Lori, io ho detto lui non l'ha scritto, del citato Hotel Lori, siccome lo scrive anche con disgusto, però questo è un giudizio mio, sito nel comune di Ficarolo in via delle regioni 880/A. Anche qui 880/A, e volevo dire che c'è anche il barra B, il barra C, qui già questo gli dà l'idea, di proprietà della White House SRL, con sede nel medesimo indirizzo, rappresentante legale della persona del signor Fogli, nato a bla bla bla bla, per le urgenti e indifferibili necessità di alloggiare e gestire i cittadini stranieri richiedenti la protezione internazionale, aperta parentesi, profughi, scrive il prefetto, assegnati alla prefettura di Rovigo e per le motivazioni in premessa nelle more della predisposizione di ulteriori atti necessari. Con separati provvedimenti, questo è il punto, saranno determinate le indennità previste dalle normative vigenti, soldi da dare. Individuato il soggetto gestore cui affidare la gestione della struttura. Bravissimo, specificato. Avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni, ovvero al capo dello Stato entro 120 decorrente la data di notifica. Faccia ricorso, dici, però la chiave è ordina. Ordina a questo signore qua, ordina. Poi gli diamo l'indennizzo, però intanto ordina, perché lo Stato ordina. Allora, e tu non fai bubù. No, vai. Arrivederci. No, vai. La proprietà privata è intoccabile. Allora, la Gazzetta di Parma pubblica in prima pagina, se non sbaglio, a meno che non sia un fake, ormai non si capisce più un cazzo, un articolo che ha questo titolo: Ucciso e abbandonato in strada. Era in una pozza di sangue nel cuore del quartiere San Leonardo, le indagini della polizia. Allora, una signora, non dico nome e cognome perché poi una tizia, anzi dico solo il nome, che si chiama Rachele, scrive queste frasi. Ragazzi, qui veramente la follia animalista non ha pace, non ha confini. Subito ho avuto una stretta al cuore pensando parlasse del cane, guardando la foto sottostante. Poi ho letto il titolo secondario, cioè l'occhiello, quello che è, titolo secondario del solito spacciatore nigeriano. Quindi ho tirato un sospiro di sollievo. Mi sarebbe dispiaciuto se a morire fosse stato il cane. Allora, nigeriano di 22 anni trovato morto in via Gobetti, ancora mistero sulle cause, aperto un fascicolo per omicidio, ma non si esclude l'ipotesi dell'incidente. Allora, ragazzi, amici miei, cioè questa qua si era preoccupata per il cane, non il suo cane, per un cane. Vabbè. E ha tirato un sospiro di sollievo. Allora, Giulia Milano, vai. Pronto? Sì, dimmi. Dunque, io sono una signora anziana, sono molto sì, anziana. Allora? Ecco, e volevo, prima cosa, dare la mia simpatia a Parenzo. Grazie, grazie. Simpatia a Parenzo. Intelligente, colto e spiritoso. Va bene, d'accordo. Ecco. Poi? E ti trovo provocatore, ma simpatico. Va bene. Va bene, di questo però possiamo anche fregarcene, cara signora Giulia. Ma comunque... no, dai, non fregartene, per piacere. Guarda. Va bene, poi? Ecco, poi io volevo spendere una parola per... quei sindacacci di Goro, Gorino e compagnia bella. Sì, che questi hanno fatto? Qui, che hanno fatto questi signori? Che cosa hanno fatto? Questi signori hanno detto, perché l'hai pubblicato te, ne hai parlato te, sì, io allora? Ho fatto venire la mosca al naso, veramente. Allora? Questi signori non si ricordano che c'è stata un'alluvione nel 1951, quando loro erano profughi. Infreddoliti, miseri. Signora, conciati. A questi qua non gliene frega niente di quello che è successo nel 1951. Insomma, allora, la vita è così, però. Ma non è la stessa cosa, non si qualcuno, può. Qualcuno che dica una voce così. Ma dica posso dire che una cazzo. Ogni volta, con tutto rispetto, cara signora Giulia, ricordare noi eravamo immigrati. C'è stata quando no, c'è stata no, ma come è no? Una puttanata questo, signora, è una puttanata perché? Una perché? Perché? Perché sono situazioni diverse, cose diverse, condizioni diverse, un mondo diverso, non c'entra niente. La gente scappa sempre dalla fame, Daniele, anche Venezia. Noi scappavamo dalla fame, Daniele, può sembrare, Venezia. Eppure abbiamo creato delle grandi cose in giro. Guarda, per il mondo, Daniele Venezia. Daniele, ciao, dimmi. Cruciani. Vai, ciao, dimmi. Ascolta, il Parenzo fa incazzare sempre di più. E chi volevo portare una Daniele, piccola. Daniele da Venezia. Vai, va bene. Ascolta, il Papa ha ragione a dire che bisogna tenere conto il numero da portare giù qua. E in più Parenzo dovrebbe sapere anche che no, la il Papa ha detto questo, ma ha detto anche il contrario. Bisogna accogliere, però bisogna accogliere solo quelli che si possono integrare. Mi sembrava chiara la sua espressione questa volta. Solito paraculismo papale. Comunque, va bene. Il paraculo però è il tuo amico che hai al lato più di altri. Il paraculo dice quello che pensa. Sentiamo. Ti porto un esempio. Ti porto un esempio. A scuola di mio figlio, capito, che è tuo figlio, fa la seconda superiore, hanno portato un ragazzo pakistano, capito, allora? Profugo, ok, che non sa un cazzo né di italiano né di inglese. E allora? E questa è la bella accoglienza che diamo noi italiani, ma ti sembra giusto? Cioè, non ho capito, allora, scusa, sì, hanno portato dove questo profugo, questo ragazzino? A scuola, lo mandano a scuola. Lo mandano a scuola, che deve fare? Meno male che lo mandano a scuola, c'è alcuni che non li mandano manco a scuola. Pensa ai Rom. Scusami Cruciani, ti sembra giusto che lo mandino a scuola, che non lo so, un coglione... che non sa dire né una A in inglese neanche in italiano. Chi sarebbe il coglione? Chi sarebbe il coglione? Chi sarebbe il coglione? Lui si sentirà un coglione. Non lo so. Senti, ma poverino. Ho capito, ma adesso non ci possiamo occupare di come viene accolto una singola persona. Il fatto che vada a scuola mi sembra una cosa positiva. In generale mi sembra una cosa positiva. Molto positiva. Non mi sembra una cosa negativa. Ciao. Molto positiva. Ciao. Vamos, ciao. Allora, casino immigrati, Parenzo, qui ormai siamo diventati la sentinella, una delle sentinelle per cercare di capire se questi hanno ragione, se questi hanno torto, eccetera, eccetera. Ad Anfo è un piccolo paese, io lo faccio sempre quando vado a Madonna di Campiglio, se non sbaglio, dell'Alto Bresciano, diciamo, no? Alto Bresciano, Anfo, paesino di pochissimi abitanti, credo 400, una cosa del genere, hanno portato a un certo punto una cinquantina di immigrati e il sindaco è incazzato. Vogliamo fare una telefonatina a sto sindaco? E facciamo una telefonatina a sto sindaco, vabbè, vediamo che ci dice. Vedi di incazzarti pure con sto sindaco, vediamo, vediamo. Pronto? Sì, Bondoni? Sì. Buonasera, qui Radio 24, sono Cruciani. Senta, che succede lì con i profughi? Ce ne sono troppi. Qua le leggi, leggi non arrivano, si fermano solo a Roma. A Roma decidono il 3 per 1000, sì? E a me ne mandano qua 47 su 490 abitanti. Ma sono già arrivati? sono già arrivati da più di una decina di giorni. Ecco, ma che personaggi sono? Guardi, sono diverse etnie, perché sono 7-8 etnie, tra l'altro cristiani e musulmani insieme in un villaggio fatiscente, perché comunque sia in un villaggio fallito da tempo, che non funzionava più. Vengono anche trattati male, perché comunque, sentendo loro, sono abbastanza al freddo e mangiano male. Cioè, non ho capito, si lamentano? Sono solo in giro, continuano a girare per i paesi limitrofi, la gente si allarma, anche perché comunque... Scusi, ma si lamentano per il cibo, si lamentano per come sono trattati? Sì, loro si lamentano, i ragazzi lì si lamentano un po' come sono trattati. Noi in che senso? Ci lamentiamo perché le istituzioni ci hanno lasciato da solo, questo qua è un grosso problema. Ma perché si lamentano questi ragazzi, questi immigrati? Si lamentano, dicono che mangiano bene, che hanno freddo. La popolazione perché ha paura? Non ho capito. Sì, ma la popolazione ha paura della novità, la novità fa sempre paura, specialmente gli anziani, le persone anziane, quando si trovano tutti questi ragazzi che girano un giorno, due, tre, cinque, dieci, poi nel far nulla, vedendo poi anche dalle trasmissioni varie quello che potrebbe succedere, insomma, giustamente. Ma lei che dice, ce li vuole questi qua oppure è meglio che vadano via? Ma con 390 abitanti nel mio paese ho già il 10,5% di marocchini, ne sta arrivando un altro 10% che sono i 47, cioè andiamo al 20%, insomma è pesante la cosa da gestire. Capito Parenzo? C'ha torto questo qua? Ma c'ha torto, fa il suo marketing elettorale, va ma bene. Che marketing elettorale? Fa il sindaco? C'è la solita storia che sentiamo da sempre, se ogni comune si prendesse la sua piccola quota parte di persone. Ma questo uomini, qua, ma sono pochi, donne. Sono pochi in paese, 400 persone. Ma 400 persone vengono messe a rischio da 10, 8, 4, 7, no, sono 10, sono 50. 50 migranti, cioè voglio dire, ma si crea anche una piccola comunità, una relazione, un rapporto, non è che sono 50 criminali che gli devastano la città, ma nessuno di che cosa stiamo parlando? E allora create le condizioni per creare una bella convivenza, può essere anche un modo per arricchire quel territorio. Non io. Createle voi. Allo Stato di creare le condizioni, non può lo Stato mandarmi qua dei profughi. Ma è la stessa roba che magari dicono in Ungheria, dicono dalle altre parti. Cioè, questo qui può fare la sua propaganda. Una persona in casa sua quando arriva a casa non ha chiesto il permesso di entrare. Ma che stupidaggine. Ha ragione, ma che stupidaggine è? Ma cosa vuol dire? Lei perché se li è presi? Poteva dire di no, lei perché li ha accettati allora? Ma come potevo dire di no che erano già arrivati? Mi sono trovati qua senza che mi ha chiesto niente a nessuno, almeno avvisarmi di dire guarda che arrivano tot. Niente, nessuno ha detto niente. Presi. Nessuno ha detto niente. Ma non ha torto questo signore. Perché ha torto Marcio? Gli dai addosso inutilmente. Ma non gli do addosso. Anche lui, sindaco, come tanti comuni italiani, sindaco, deve farsi carico. Che dici, Umberto? Ti do del tu. Su. Sì, no, io dico semplicemente che se la cosa andava spalmata sui comuni, appunto, così è. Ed è così. Ma non è così. Vedi che ragionando si arriva a un punto. Ma ha detto che gliene mandano 47 su 400, non li vuole, no? È così. Vedi che è così. Sì, vedi che è così, cioè lì sta il piano del governo è quello, sì, vabbè, di come il piano dell'Europa è quello di spalmarli che in diversi paesi. Che fanno tutto paesi. Il giorno questi qua? Che fanno? Ma che fanno? Cosa vuoi che faccio? Bisogna trovare anche a loro le condizioni per fare qualcosa, magari si crea un'integrazione con la comunità, mettono a posto dei giardinetti, lì si aiuta a integrarsi. Sì, certo. Il nostro comune, ripeto, siamo 490 abitanti, le cose le gestiamo già tutte da noi, perché anche non è un paese che ha industria, non ha nulla, il mio paese vive esclusivamente di turismo i 2 mesi d'estate. Appunto. Per cui non avrei neanche la possibilità, volendo, di fargli fare un qualcosa. Ma dunque lei pensa che sia un danno per il turismo? Ma anche. anche. Ma quale danno per il turismo? Dai, basta mettersi, no. Basta sedersi attorno a un tavolo e mettersi d'accordo anziché fare della propaganda, dai. No, hanno già chiamato dagli stranieri che vengono in campeggio, che prenotano anno per anno, ha sentito. Cosa hanno sentito? Novità, ma dove hanno sentito? Ma dove? Ma dove che l'hanno sentita? E che hanno fatto? Hanno detto, hanno disdetto? Che hanno fatto? Non hanno disdetto. Appunto. Vogliono sapere come andrà. Allora, già cominciamo a dire le cose come stanno. Non hanno disdetto. Cominciamo a dire le robe come stanno. Adesso si dicono balle. Ma non hanno disdetto. Scusi, sindaco, sindaco, ma lei ha paura pure di, che ne so, violenze, cose. No, io personalmente no, però non so, non sono nella mente delle persone che girano attorno, perché potrebbe. Ma 40 persone sono controllabili comunque, 40 persone, stiamo parlando di 40 persone. Sì, ma chi le controlla? Cioè non sta a me controllarle. Sindaco, hanno bussato a casa tua senza chiederti permesso, questo è il punto. Questo è il punto, ecco, questo qua è la cosa. Hanno bussato. Il governo sono andati a casa sua, sono andati a casa sua e gli hanno detto scusa, senza chiedere permesso, eccoci qua, eccoci qua. Lo Stato, non è, che c'entra, ma che vuol dire? Ma che c'entra lo Stato? Lo Stato ti manda a casa la gente, dai. Si chiama piano dei profughi e riguarda tutti i comuni italiani. Vabbè sindaco, io sono con te, io sono. Ma non c'è da essere con l'uno contro, la stupidaggine. Io sono col sindaco. Ma che vuol dire niente? Ciao. Sono col sindaco, ciao. Giuseppe da Chieti, vai, Giuseppe, vai. Dottor Cruciani. Oddio, Parenzi, è arrivato pure questo qua stasera. Il sociologo, puttana. Avanti. Giuseppe da Chieti, Che cos'è che hai detto? Ho detto il sociologo puttaniere. Puttaniere può darsi, o comunque re dei puttanieri, simbolo dei puttanieri, paladino del sociologo, non credo. Laureato in sociologia. No, non sono laureato in sociologia, sono laureato in scienza politica, ma non me ne fotte nulla. Va bene. No, sa perché, Cruciani? Sì. Poi gentilmente. Mando a fanculo. E perché, scusi? Perché, per pareggiare, l'ultima volta che ho telefonato, siccome l'ho colpito, quando viene colpito, manda a fanculo e chiude il telefono. Allora, uno a uno, bene. Non me ne sono accorto che mi ha mandato a fare in culo. Comunque, vediamo, diciamo che lei mi ha mandato a fare in culo. Gentilmente la manda a fanculo. Va bene, che vuoi, Giuseppe? Oggi, stasera, allora, cosa vuoi? Il sabotello del cazzo. Sì, però cerca di far funzionare meglio quella minchia di telefono che hai, capito? Cioè quel telefono inutile, in quella testa inutile che hai, ecco. Almeno cerca di farlo funzionare meglio. Già la tua testa è totalmente inutile. Totalmente. Ma se il tuo telefono non funziona, si unisce a inutilità della testa anche l'inutilità del telefono. E almeno qualcosa di utile per la trasmissione potrebbe restare, per la trasmissione, posta l'inutilità del tuo telefono e della tua testa. Totale. Dai. Ma che cazzo ce ne frega di avere la marijuana legalizzata quando abbiamo la zanzara? La zanzara. Hey, oh, let's go. Parenzo, basta tirare in mezzo Zagrebeschi. Cosa ne pensa di Zagrebeschi? È sciacca. Non ce ne frega un cazzo. Noi vogliamo parlare di puttane con Carmine da Roma, sentire cosa ne pensa Donato da Varese degli immigranti, Mauro da Mantova di De Benedetti e intanto allenare il perineo. Basta, siamo al top. Avete rotto cazzo che ancora dovete imparare a memoria i numeri della zanzara? 800240024 per farvi dare da Parenzo dal miserabile in diretta. 393717701 per farvi dare da Parenzo dal miserabile in differita. Mi raccomando, salvate i due numeri in rubrica sotto la voce libertà. Voci da Ficarolo. Voglio sottolineare come qui a Ficarolo si stia compiendo un atto antidemocratico, indegno di un paese civile, viene colpito con violenza una proprietà privata ed una comunità di 2.500 abitanti, comunità che è stata terremotata nel 2012 e che oggi, quando abbiamo i nostri cittadini italiani nelle tende, si vede arrivare un numero indeterminato di finti profughi, perché nessun comune, non si può scaricare sui comuni la responsabilità dell'accoglienza di una politica scellerata. Li vogliamo, siamo pronti alle barricate. No, cioè voi volete fare come Agorino? Come Agorino. Bravo. Con le vere ruspe. È giustificato da chiedere più soldi, è proprietà privata, non si requisisce perché uno chiede più soldi, la proprietà privata. Garabue, ma cosa dice? Il problema è economico, allora diciamolo, questo signore non vuole dare la sua struttura perché non gli sta bene quanto la legge prevede. Ma può fare quello che vuole, è casa sua, ma non puoi è casa sua, non capisci, in una difficoltà non capisci, nel dove vieni? Anche a Milano, davanti alla caserma Montello, poi c'è stato pure un presidio, diciamo, a favore degli immigrati, comunque. Comunque il Papa fa molto male, sarebbe ora di dare a queste persone i mezzi contraccettivi, perché siamo a 7 miliardi e mezzo. Che ha detto questa, che bisognerebbe, il Papa dovrebbe dare a questi dei contraccettivi, agli immigrati contraccettivi. Sì, cioè sì, bisognerebbe dare i contraccettivi agli immigrati. La follia. Siamo 7 miliardi e mezzo, questo pianeta sta morendo, siamo in troppi, basta figli, non facciamo i figli come i conigli, l'ha detto anche Papa Francesco. Allora, eravamo con Giuseppe Da Chieti. No, eravamo con una persona totalmente inutile che è Giuseppe Da Chieti. Totalmente allora, inutile, Cruciani, perché bisogna dire una cosa invece di Giuseppe Da Chieti. Con il maiale che bisogna dire a Giuseppe Da Chieti, poverino, che la notizia bella di oggi che apprendiamo leggendo i giornali è che ad esempio a Venezia ha aperto il primo locale africano gestito da richiedenti asilo. Ma chi se ne frega? Sono silenzio, etiopi, sudanesi, nigeriani, i piatti proposti verranno scelti dopo un concorso in città. Ma se sono regolari. Cioè dai barconi ai fornelli, ecco il primo ristorante dei migranti. Ma non mi interessa, allora, se sono gente African regolare Experience che ha diritto di è stare una qua. Storia di come queste cose arricchiscono le nostre ma città. Cosa vuol dire? Dai, ma allora vuol dire il niente, fatto che a Venezia apre il primo locale africano gestito da persone che sono richiedenti ma asilo. Ma richiedenti quindi asilo sono clandestini, richiedenti asilo, chiaro? Sono clandestini. Vuol dire che clandestini, cosa? Vuol dire che c'è la volontà non solo di inserirsi nel nostro territorio, sentire, Giuseppe, ma di arricchirlo, di portare. Qua, dai, capito? Giuseppe, questa vai. È una notizia straordinaria. Andate a vedere, allora, vedere. Ci stanno ristoranti stranieri in Italia, Giuseppe. Andate a vedere, andate a vedere. Il maiale che c'ha a fianco, che adesso se la ride, tra poco non riderà più, perché quando andranno sotto casa sua, se ne accorgerà. Sì, se ne accorgerà. Vabbè, Giuseppe, allora poi? Allora poi volevo consigliare al dottorino Cruciani, che siccome è pagato per le parolacce e le cazzate serali, dovrebbe dire una trentina, perché io ho calcolato 200 giorni di trasmissione, giorni? No? 600.000 euro, quindi 3.000 euro a serata, no? Sì. Ma pare un po' tantino, però, esatto. Però giusto Cruciani, ma non lo so, non è giusto, non è corretto, giusto. No, Cruciani, no, no, no. Giusto, magari io non ho capito una cosa, Giuseppe non ho capito, ma stasera bene che stracazzo vuoi? No, ma per sapere è solo, no, è solo. Sapere. Un consiglio è solo un consiglio, allora praticamente c'ho il contatore delle parolacce e delle cazzate serali che dice, no? E allora dovrebbe aumentarle un po'. Cioè, sì, per stare nel cachet serale. Vabbè, senti Giuseppe, non hai niente da dire stasera, nulla, come al solito, niente da dire. Il tuo cervello è sempre più vuoto, vai a fare in culo. Massimiliano, Milano, vai, Massimiliano. Ma sono cambiati i tempi, perché una volta c'erano in giro per le città quei personaggi che strillavano da soli, urlavano, parlavano, sì, e tutta la gente li guardava come se fossero dei maschi, bravo, non capita ancora. Bravo. Però ad un certo punto, con l'avvento della zanzara, dalle 6:30, dalle 9 non ci sono più, perché bravo, chiamano tutti la zanzara. Sì, beh, questo qua è buono, sì, allora? Questi pazzi chiamano tutti, perché? Perché mentre prima non li ascoltava nessuno, grazie alla zanzara li ascoltano 4 milioni di persone. Quindi diciamo che il servizio sociale della zanzara è dare voce a questi cretini, sì, che altrimenti non li ascolterebbe nessuno. Bravo, questo è un fatto, un'analisi lucidissima, sto Massimiliano. Allora, qui. D'altra parte, la cui voce conosco. Forse così non sarebbe. Aspetta, però, scusami Massimiliano, però non si sente. Aspetta, non si sente un cazzo. Che c'è? L'auricolare, come al solito, che c'hai? Viva voce. E dai, su. Mi senti meglio? No, non sento. Oh. C'è una zona che prende male, mi senti? No, ti richiamo, dai, Emilio Perugia, vai, Emilio. Sì, dimmi. Ciao, buonasera. Dimmi. Allora, volevo dire due cosine a Parenzo. Allora, visto e considerato che nel mondo ci sono miliardi di persone che stanno male, li possiamo accogliere tutti in Italia? No, no, assolutamente no. Non li possiamo accogliere tutti in Italia. Assolutamente io sono no. Congorino di fare le barricate. È ora che gli italiani si sveglino. È ora che gli italiani si sveglino. Fermo, che fai? Che ti muovi? È ora che si sveglino. Che non si accettino più queste persone, perché non è più possibile tenerli tutti in Italia. Siccome hanno fatto un business con gli immigrati... Bravo. Hai capito? Stanno facendo un business, bravo. Perché se li aiutano da parte nelle loro località, il governo italiano... Ma lascia perdere le località, è evidente, un fatto. La stessa vicenda di questi giorni di Ficarolo dimostra che cosa? Che c'è un prefetto che si mette d'accordo con una cooperativa per gestire queste robe qua. Perché dovrebbero essere... le cooperative dovrebbero disinteressarsi di queste robe qua. Come? Sì, basta con queste cose qua. Basta con la gente che ci fa i soldi sopra. Certo. Ma come ci fa i soldi? Offre un servizio? Basta con la gente che ci fa i soldi sopra. Servizio. Ma che servizio fanno? Servizio lo fanno. Offrono un servizio. E chi lo deve offrire il servizio allora? Scusa, lo Stato direttamente. Si non interessa. Volete... Non lo so, i dipendenti pubblici si mettono a pulire il culo agli immigrati invece di far lavorare alle cooperative. Ma che storia, eh? No. Ma neanche l'ultimo degli ascoltatori direbbe una storia, una cosa simile. Ma perché? Il problema vero è che si mettono, il problema vero è che ormai è diventato un affare ed è impossibile non accoglierli, perché altrimenti un sacco di gente perderebbe posti di lavoro. Ma quale affare? Ma non le cooperative del sociale, per fortuna, esistono e lavorano su tanti altri ambiti, mica solo su quelle dei migranti. Tornati in onda, Massimiliano. Dimmi, Massimiliano. Pronto? Allora vai, dimmi. Mi senti adesso? Sì, ti sento, vai. No, stavo dicendo questo, che la funzione sociale della zanzara è quella di dare voce a dei deficienti, che altrimenti non li ascolterebbe nessuno. E per colpa della zanzara, invece, questi deficienti hanno modo di farsi sentire. Vabbè, la cosa grave è che ci sono altri deficienti poi che sostengono queste tesi. Ma fin qui non è grave. Diciamo una funzione sociale, invece di andare in manicomio, stanno lì col telefono a chiamare la zanzara. Va benissimo. La cosa grave è quando sono rappresentanti delle istituzioni. Tipo? Perché tipo, ad esempio, diciamo un po' il più cretino di tutti, se facciamo una classifica, diciamo che arriva primo come cretinaggine, quel formaggio, adesso credo si chiami formaggio. Sì, Gio Formaggio. Bravissimo, quale formaggio andrebbe semplicemente messo in manicomio. Cioè, bisogna interdirlo completamente, ma non dal potere politico, che già lì andrebbe fatto perché comunque... Cioè va commissariato, va cacciato. Gio Formaggio va cacciato. No, va messo in manicomio, è matto. Ma che è matto? Ha ragione, Massimiliano. Prima bisogna togliergli la possibilità di governare, perché è ridicola questa cosa. Secondo, bisogna metterlo in manicomio. Ma la cosa più grave non è il formaggio, perché il formaggio fa il suo... è matto e quindi fa il matto. Quindi è stato eletto sindaco, perché c'è una legge elettorale probabilmente che fa votare anche i matti, e quindi questo è stato eletto e rappresenta benissimo il suo elettorato. Ma questo non è grave. La cosa grave è la zanzara che dà voce a... ha un criminale. Bravo. Ma che criminale, cazzo dici? Sei impazzito, Massimiliano. Ma non dire cazzate, dai. Criminale perché favorisce la violazione di norme, di leggi. Cioè, allora che cos'è? E dunque la proposta qual è? Quando qualcuno bestemmia, quando qualcuno favorisce il razzismo, va assolutamente eliminato, perché commette dei reati, favorisce dei reati. E allora? E quindi questo, va bene, non è grave, perché basta toglierlo da sindaco e metterlo in manicomio. E invece? Il problema è un altro. Quello che bisogna fare assolutamente è arrestare immediatamente chi dà la possibilità a questi cretini di parlare. Quindi chiedo l'arresto immediato, in diretta, di Giuseppe Cruciani. Cruciani va arrestato. Ma vai a fare in culo. Cruciani è pericoloso. Bravissimo. Bravissimo. Cruciani è un criminale. Bravo, bravissimo. Non dite cazzate. Bravissimo. Fai la raccolta di firme per arrestare Giuseppe Cruciani. Bravissimo, Massimiliano, bravo. Ma vai a fare in culo. Non solo dà la possibilità di parlare dei deficienti, bravo, ma questo paziente, ma sei fuori di testa. Bravissimo. Viva la libertà, viva la libertà. Buffone, buffone, buffone. Ma smetti, è giusto uccidere. Ma che non ha detto questo, non ha detto questo, formaggio, imbecille. Bravo Massimiliano, bravissimo. Bravo. Ma non dire cazzate. Le persone quando bestemmiano in pubblico bestemmiano. Bravo. E non va bene, non va bene, quindi non possiamo arrestarli perché sono dei malati di mente. E sai che colui che smettila, di mente non dai, esatto. Cruciani, io considero che sia assolutamente capace di intendere e di volere, a differenza di questi cretini che chiamano, e quindi Cruciani va arrestato. Ma va, ma sei un cretino, bravo. Ma sei un cretino. Sottoscrivo pienamente tutto. Quell'altro sottoscrive. Sì, bravissimo, bravissimo, bravissimo. Si è pure attaccato il telefono, sti imbecilli. Sì, bravo, bravo. Massimiliano è grasso che cola. Bravo, bravissimo. Ma vai a fare il culo. Grasso che cola per le mie orecchie. Bravo, bravissimo Massimiliano. Giusto, andresti arrestato. Ma smettila. O se non altro indagato. Bravissimo. Ha perfettamente ragione. È vero, adesso, è così. Siccome insistete su questa minchiata, vi mando formaggio tra poco. Vi rimando formaggio tra poco. No, perché? Sì, dopo la pubblicità te lo rimando tutto. No, te lo no, come no? Te lo rimando. Te lo rimando. Te lo rimando. Fa schifo. Fa non schifo, mi interessa, te lo rimando. La parte che ieri non hai sentito. Via. La parte che ieri non ho sentito, te la rimando niente, tutto. Me ne vado, no, non stai là ad ascoltare, non dici niente. No, però non te la rimando tutta. Niente, no, ci sei anche tu in mezzo, per cui anche se te ne vai. Vado uguale. Via, non ascolto niente. Parenzo, Parenzo, Parenzo, Parenzo, Parenzo. La zanzara. Luciani, dico ai coglioni che parlano di fracking che il fracking in Italia non si, con la tecnica del fracking non si applica mai in Italia, non è stata mai autorizzata, quindi che non dicessero cazzate. Aspirando il petrolio, inserendo il gas con la scia chimica che passa nel riscaldamento globale, vengono i terremoti, normale. Parenzo, vai a studiare su Google, come fai su tutto, il fracking. In Michigan l'hanno vietato perché genera terremoti. Ha rincoglionito. Ciao. Amici della zanzara, lasciate perdere. Io la zanzara non la voglio sentire perché mi interessa il traffico. Voglio sentire il traffico. Capito? Stazioni di servizio Costantin. Se ti fermi, ti conviene. Vi presenta la zanzara. Ricordandovi che la Digos ha preso informazioni, che qualcuno vuole il commissariamento del comune, che addirittura c'è un'interrogazione parlamentare contro Joe Formaggio e le sue dichiarazioni dell'altro giorno alla Zanzara, risentiamo la parte che riguarda l'Islam, che è stata un po' sottovalutata, ma invece secondo me forse la parte più feroce da parte... scusate, la parte più feroce da parte di... ogni tanto mi incartro. La parte più feroce di Joe Formaggio. Con grande incazzatura parenziana, Maometto. Ma basta che guardi quella cazzo lì di religione come tratta le donne. Allora? Ma come si permette? Spose, no, è una ma cazzo come si permette di dire queste cose? Spose, ma guarda, io spose veramente a 12 non... anni, spose a 12 ma anni. Ma come si permette di dire delle cose simili? E quindi i musulmani possono no, andare guarda, a fare in culo? Io adesso non parlo sì, più con questo, guarda, io mi dissocio totalmente. Mi dissocio perché chiudilo perché sta dicendo delle cose gravissime, volgari e sta offendendo milioni di persone. Guarda, chiudilo, chiudilo. Sta dicendo delle cose, io non parlo. Io non voglio partecipare. Non partecipi. Scusami. Sta dicendo, devi chiuderlo. Se uno è una religione, se tu consenti. Aspetta. se tu consenti che uno offenda pubblicamente così, sei complice di una vergogna. No, sta dicendo. E io non parlo. Ma scusa, mi sta dicendo. Ma andate a fanculo. No, ma scusami, Davide, sta dicendo. Aspetta un attimo, aspetta. Non c'è giustificazione. Sta dicendo. Stai facendo parlare uno che insulta gratuitamente. Stai tranquillo, devi stare tranquillo. Sei complice di uno schifo. Ma cosa? Sei complice di uno schifo. Ma devi stare tranquillo. Devi stare tranquillo. Basta. Chiudilo. Devi stare tranquillo. Sta dicendo nei casi in cui. Ma cosa chiudo? Sta sei dicendo... complice dello scusami, schifo. Stai devi stare... insultando. Cosa? Ma sta dicendo una cosa. Insultando. Aspetta, Joe, stai zitto un attimo. Io non parlo. Joe, stai zitto un attimo. Allora, fate voi. Allora, calma. Io sto... Non mi sto. Ma devi stare tranquillo, però. Devi stare tranquillo. Fermo lì. Devi stare tranquillo. Me ne vado. Ciao. No, ma stai tranquillo. Fate stai i cazzi vostri. Ciao. No, devi stare tranquillo. Divertitevi. No, scusa, Davide, devi stare tranquillo, però. E tu difendi quelli che stuprano i bambini di 12 anni e le sposano, bravo! Sta dicendo una. Lui facciamogli sta dicendo. Non ha detto che sono pedofili tutti i musulmani. Ha detto un'altra roba. Ha detto che sposare una bambina di 12 anni è una cosa che non si può fare. Sarai d'accordo su questo? Volevo, lascia Leo, perdere i termini causati. No, vabbè, adesso bisogna bruciarli vivi, un altro discorso. Ma sei partito uno che la in sposa. Allora, sia il padre della bambina che quello che la prende in sposa. Mi abbiamo affari. Allora. Mi avete chiesto cosa ne pensi di quelli lì, Maometto era un pedofilo, se va con una bambina di 12 anni? È certo che è pedofilo! Allora, abbiamo fatto un piccolo sondaggio nel comune di Albettone, caro Parenzo. Senti che cosa è uscito fuori, eh? Comune di Albettone, provincia di Vicenza. Provincia di Vicenza, vai! Sì, buonasera signore, io sono il presidente dell'associazione Forza Immigrati. Lei non prova vergogna per ciò che dice e ciò che fa il vostro sindaco Gio Formaggio? Aspetti, la blocco subito, a me queste cose non interessano e non trovo neanche giusto che voi veniate a chiamare persone che non c'entrano ma niente. Signora, domani ha detto che comune, si faccia passare ma signora, il sindaco e non disturba signora, le persone sì, ma che... signora, allora, lei capisce. Non si deve permettere di telefonare. Ma io devo casa, permettermi, e signora, e basta, perché dà dei razzisti. Ma io sono il presidente. Io devo permettermi, difendo gli immigrati, signora, e quello ma ha detto che siete razzisti. Che vuole, ma non può venire a rompere le palle a delle persone che ma non signora, c'entrano niente. Ha detto che i negri sono inferiori. Domani in comune, signora, ha detto che sono. Ha capito? Ha detto che i negri sono pronto? Lei non si vergogna ad avere un sindaco come Gio Formaggio? No. Lei non si vergogna? No. Lei è d'accordo che la gente di colore è inferiore a noi? Sì. Sì, bello. E poi ci andate dietro, impalinate anche i negri. Anche questo fate? Esatto. Ah, bene, andate dietro e gli sparate ai negri. Certo. Ma lei sta disturbando? No, io non sto disturbando. Sì, io mi sto disturbando. No, io non sto disturbando. Ma le sto solo chiedendo... Pronto? Senta, lei non prova vergogna per ciò che ha detto e fatto il vostro sindaco Gio Formaggio? Formaggio, chi lo conosce, è del partito per arrivare a questo, a uno che interessa negri, bianchi e rossi. Interessa arrivare dunque, lo capivo solo e adesso vi ho tenuto. Tra l'altro mi tocca tenermi anche a me. Fa vomitare andare a votare per sta gente, no? Oh, sì, infatti mi non so quanti che andranno ancora. Davide, com'è la traduzione qui dell'ultima cosa che ha detto questo? No, ha detto cose molto di buon senso. Dice, lo avete votato, ve lo siete voluto . E quindi ci tocca tenercelo, è così. E questo ha detto sostanzialmente. Quello di mezzo l'hai sentito, quello di mezzo, è pazzesco. Sì, quello come di no. mezzo, incredibile. Vabbè, d'altra parte qualcuno lo deve aver votato, no? Altrimenti. Insomma, voglio dire, anche nella profonda America negli anni 60 c'erano quelli di colore che, infatti, che secondo me, andavano negli autobus. Secondo me lui dovrebbe essere mettersi a capo di un movimento che si chiama Ku Klux Klan. Sì, ma tutto questo in Italia, so che ti dispiace, è illegale. Ma io non lo so se è illegale so o no. Che ti dispiace. Non so se è illegale. Qua no, da noi è illegale. Ma io non so se è illegale. Vedremo, vedremo. Pubblicamente razzisti. No, non è illegale. E dire che vuoi impallinare i negri è illegale per ora. Se volete cambiare anche questo, fai una disegno di legge popolare, fai quello che no, ti pare. No, per carità. Per carità. Ora però è illegale. Antonio, provincia di Roma, vai. Antonio. Sì, eccomi. Dimmi Antonio, dimmi. Buonasera. Cioè, le voglio dire, ti posso dare il tuo? Puoi fare quello che vuoi, puoi fare quello che vuoi. Ho la tua età, ti seguo da una decina d'anni. Hai la mia età, cioè 50 anni. Hai 50 anni. Abbiamo qualche giorno di differenza, sì. Bene, e ti seguo da una decina d'anni, da quando Davide e lei era persone, quando c'eri pagato e... Altri tempi, sempre... altri tempi, altri Bravo. Tempi. Altri e ti volevo chiedere, ma questa deriva tua... Quale deriva? Non c'è nessuna deriva. Di usare termini da maleducato. Questo parolacce. Lo dici tu, questo lo dici tu. Beh, no, vabbè, questo lo dici tu. Prima, questa prima è una tua opinione che è una tua opinione che rispetto, è una tua opinione che rispetto. Per me la parolaccia non esiste, esistono dei modi di dire. La parolaccia, cioè l'accezione negativa della parolaccia è una cosa che respingo con tutta la mia forza, ma d'altra parte chi se ne frega di parlare di questa roba qua, ma perché certo. No, ti voglio chiedere. Pronto? Sì, sì, ti sento, che ti ho tagliato? No, ti volevo chiedere questo. Quella per te non è parolaccia, per la discorso maggior parte vecchio, delle persone è così. Discorso vabbè, vecchio, ma vecchio, ti voglio antico, chiedere discorso ma antico. Tu hai cambiato il tuo modo di fare la non è interessante, non è interessante quello che stai dicendo. Vabbè, a me interessa. Interessa a te, mandami una mail, vabbè, però vediamo, no. Può darti pure qualcuno, mandami una mail. Ma lo fai per interessi? Ah, ok, ti mando una mail. Volevo sapere se per soldi lo fai per audience. Per soldi, oppure benissimo. Perché... Sì, per soldi, così sei contento, per soldi, per quattrini. No, che sono contento, io sono curioso. Così sei contento? Ma non c'è bisogno di dirlo di intavolare una discussione pubblica. Su questa Ciao. Roba qua, l'ho Ciao. Già detto 40.000 volte, non c'è nulla, tutto quello che avviene qui avviene tutto naturalmente, per il corso naturale delle cose, cioè non è che c'è una cosa scientifica, non è che c'è una programmazione scientifica di come deve essere fatta questa trasmissione, avviene per come mi sento, per come ci sentiamo. Carlo da Fermo, vai. Dimmi Carlo, dimmi Carlo. Grazie, la repentina messa in linea, evidentemente l'argomento è molto interessante. Sì, dimmi. Un altro lucido. Molto interessante, molto interessante. Piena di gente lucida anche stasera, perfetto. Allora, affanculo, mi sono rotto i coglioni. Già ti sei rotto i coglioni, non ho capito. Già ti sei rotto i coglioni. Richiamatelo, Gianfranco, provincia di Lecco, vai, Gianfranco. Gianfranco! Pronto? Dimmi. Ciao Cruciani, ciao Parenzo. Vai, dimmi. Chiamavo solo per dire a Parenzo che prima... No, chiamavi da non so da dove, dalla spelonca, dalla grotta, da sei in viva voce, col telefono, con l'auricolare... No, telefono normale, sono telefono Dimmi. Normale. Mm. Vai. Chiamavo per dire a Parenzo che prima quando parlava di Medjugorje, che non è una tradizione centenaria, è solo dal 1981 che le sedicenti non cambia. E ma ne non... hanno avuto... No, cambia, perché... Certo ne che cambia. Ma poi a me, me ne frega niente di me. Dall'81... Il che vuol dire che ogni giovedì la Madonna alle 4 trova il tempo di apparire queste tre persone 10 minuti, un quarto d'ora. Dai, su, ma e di che parliamo? Quando uno voglia crederci, è difficile pensare che la Madonna non abbia nient'altro da fare che apparire ogni giovedì a tre persone a Medjugorje, no? Dai, su, ma ha ragione Gianfranco, ma che buffonata è? Ma lo vogliamo dire una volta per tutto che è una grande puttanata, una grande messa in scena? Ma no, perché ci credono milioni di persone. Ma chi se ne c'è? Io ti ripeto, milioni di persone credono a qualsiasi cosa. Esatto. Beh, non per questo è accettabile. La media è quella di Brosio, capiamo bene. Ma lascia perdere Brosio, adesso non è questione di Brosio. La questione è molto semplice, è che se uno deve credere, io ripeto per l'ennesima volta, è più credibile il faraone nero della Madonna di Medjugorje. Ma il faraone nero. Otelma tutta la vita, ma meglio Otelma, il faraone nero, la grande coppia. Vogliamo far incontrare una volta il faraone nero insieme ad Otelma? Beh, sarebbe stupendo, un grande meeting. Quella è una coppia Carlo, di intratti che cervelli. Grande Gianfranco, grazie, ciao. Carlo, dimmi. Calma, parliamo con calma che l'educazione. Sì. Se no ti mando a fanculo un'altra volta, mandami a fanculo, sai che me frega a me. Ah, a fanculo. Dai, dimmi, che c'è? Ancora, ha richiamatelo, questo è impazzito. Richiamatemi Carlo da Fermo, rifatemi il numero. Dai, forza. Tiziano, Milano. Pronto? Sì, ecco, è arrivato un altro. Eccone un altro, un altro campione del mondo, vai. Tiziano, dimmi. Sì, grazie. Pronto, buonasera. Volevo solo fare un'osservazione. Io ho 59 anni, 42 anni di contributi versati. E che ce frega a noi? Aspetta, se mi fa finire di parlare. Vado in disoccupazione e prenderò 880 euro al mese. Chiama Barisoni, chiama qualcun altro. No, non ho finito il concetto. Un immigrato 35x30 ne prende 1050. Io con 880 euro devo pagare l'affitto, la luce, il gas, la scheda telefonica, vestire e mangiare. Cioè, che stai dicendo? Stai dicendo che l'immigrato appena accolto prende più soldi di te? Bravo. E io però ho versato già 42 anni di contributi. Può essere incazzato Parenzo questo signore oppure no, secondo te? No, non sono incazzato. No, perché modo. Sono... No, tu... Ah, non sono incazzato, signor Parenzo. Vabbè, veda lei se non sono arrabbiato. No, può essere anche arrabbiato perché pensa di subire un'ingiustizia e probabilmente... Però non penso, è un dato di fatto. Ho io detto, prendo 880 euro detto, dopo 42 anni di contributi. Non ho visto le sue carte. Mi fido di quello che dice. Beh, metti dubbio. Lavoro dal 1974. E non metto in dubbio quello che lei dice. Quindi lei è cosciente di subire un'ingiustizia. E lo capisco, subisce un'ingiustizia. che cosa c'entra il suo caso con quello con i soldi degli stanziati altri? Per gli immigrati? Dice nulla. Tiziano, sa perché? Perché ti senti minacciato? Ma no, ma lo sa perché? Sai perché? Esatto. Perché voglio fare l'immigrato, voglio andare a vivere in una camera, non spendere una lira. Ma lei capisce che questa cosa qui non ha... Non c'è, lei non andrebbe mai a dormire in una stanza con altri cinque, in un albergo, pseudo albergo come quello di Ficarolo. Cioè, questa idea che gli immigrati vivono negli alberghi a 5 stelle è una panzana. Panzana. Bene, allora io sto dicendo, lei è mai stato nei centri di accoglienza? L'albergo di Coso era a 3 stelle. No, comunque. Ma non è che hanno una camera singola? Io andrei a vivere in una camera di 5. Vabbè. Siccome faccio purtroppo sono entrato in disoccupazione, prendo 880 euro al mese per un po' di mesi, poi ne prenderò meno. Sei incazzato per l'immigrato? Non prendere nulla, no, non perché un immigrato, non prendere nulla e andare in un posto dove mi danno da dormire, luce, gas, scheda telefonica e vestiti. E mangiare. Non credo però che vorresti andare. Non credo che vorresti andare in albergo insieme agli immigrati all'albergo Lori. Albergo Lori allora, a Ficarolo. Così, dai, allora la rimetto diversamente. No, ma non ci io vai, Tiziano. Diciamo la verità: in albergo puoi essere incazzato quanto ti pare, magari hai no, anche ragione. Incazzato. Ma tu all'albergo Lori a Ficarolo non ci andresti. Dai, ciao. No, ciao. E allora che cazzo dici? Ragazzi, io ascolto la Zanzara da 6-7 anni. E devo dire che in questi 6-7 anni sono diventato una persona peggiore. Cioè, è vero. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta. State ascoltando un programma offerto da Pneumatici Invernali Yokohama V905. Metti i tuoi sensi in contatto con la strada. La Zanzara. Luciani, ormai per me ascoltare la Zanzara in casa è come bere alcol nell'epoca del proibizionismo americano. Mia moglie non vuole e allora io mi chiudo in bagno, 5 minuti, cuffietta, un po' di Zanzara, ah, come bere whisky nella Chicago anni 20. Beh, sono molto vicino a questo ascoltatore, molto molto vicino. Non si capisce perché le mogli o le fidanzate, io ne conosco tantissime che ascoltano la Zanzara tranquillamente, vogliono impedire ai loro partner, Parenzo, di ascoltare questa produzione meravigliosa che abbiamo. Lo capisco. Ma perché capisci? Non ho capito. E anche lo condivido da un certo punto di vista. Ma che condividi? Non puoi condividere. È quanto di più lontano da una vita normale, da una, no? Ma certo, è la rivoluzione. Infatti è la rivoluzione. Da un bon ton. Ma anche il bon ton, ecco, il bon ton appunto per questo è la rivoluzione. Ora, cosa si sarà inventato ieri di martedì per alzare gli ascolti nella seconda parte, caro Parenzo? Secondo te, di quale porcheria avranno parlato? Però fa delle cose straordinarie perché si occupa sempre di cose sociali che interessano... Figuriamoci, a me lo dici. Che interessano la gente, sì, diciamo che, no? Trasmissione di ottimo servizio pubblico. Come baciare il cane sulla bocca. Ottimo servizio pubblico. Cioè, ieri hanno parlato di baciare il cane... No, non solo, ti giuro. Anche di politica. Aspetta, di Bersani, sì, lo so. Di lavastoviglie... Baciare come si lavano. Il cane sulla bocca. La mattina appena mi sveglio e la prima cosa che fanno mi danno un bacino. Anche in bocca? Sì, mi sembra quasi di baciare un umano. Ma baciare il proprio cane in bocca va bene? Farsi baciare dal cane sulla bocca non è mai una cosa positiva. I nostri amici pelosi, infatti, quando vanno al parco leccano di tutto, persino urina di altri cani e spazzatura. E attraverso le mucose possono passare al padrone infezioni batteriche da Escherichia coli o enterococchi. C'è il nuovo terrorismo organizzato che è di martedì, dovrebbe essere, come dire, quasi interdetto dalla protezione civile sostanzialmente, dovrebbe esserci un intervento ogni volta dalla protezione civile che ti dice no guardate ragazzi però qui non potete spargere terrore in mezzo alla popolazione. Cioè voi che siete proprietari di cane, a me non me ne frega niente perché figo se un cane mi si avvicina che prova a leccarmi, gli do uno schiaffo in faccia. No, come uno schiaffo? Ma sì, a leccarmi un cane, che si mette a leccarmi un cane. Si lecca la mano, è bellissimo, cosa c'è? Appunto, senti, leccano le feci, urina per strada, eccetera. Vabbè, ma senti cosa succede. Te le vai a lavare, senti cosa succede. Senti, te le vai a lavare. Senti, dai. Ancora. Possono provocare delle infezioni acute. Poi, se il cane invece non è ben curato e presenta delle malattie, possono essere trasmessi anche dei piccoli vermi. La presenza di questi parassiti all'interno dell'uomo può portare appunto un'infestazione che può colpire vari organi, ad esempio il fegato, ma prevalentemente l'intestino. Mettere un limite alle coccole però non è sempre così facile. Se lecca la pelle invece va bene. Capito qual è la grande scoperta di martedì? Di Floris, se il cane ti lecca la pelle va bene, baciarlo no. Però se ti lecca la pelle, ma è un consiglio che magari è grande, molti servizio non... pubblico, servizio pubblico. Sì, beh, il canone andrebbe girato sicuramente una parte. Certo. In parte però, a Parenzo, in parte a Cairo. Al di là, no, a me no, figuriamoci. Però voglio dire, sono informazioni di servizio. Sì, assolutamente. Domande sì, che si fa chiunque. Fatte apposta per fare servizio pubblico, certo, non per aumentare chiunque, l'audience. Sì, cioè, no, per aumentare lo share. Pubblico, no, puro servizio pubblico. Assolutamente. Non è pericoloso assolutamente il contatto della saliva con la pelle, anzi la saliva dei cani ha molti più enzimi antibatterici, l'isoenzima eccetera, perché il cane con la bocca fa tutto, quindi la cosa importante è che non ci sia il contatto invece della saliva del cane con le nostre mucose, quindi bocca, naso, occhi, quello è importante, ma se no la coccola dell'animale vale sicuramente qualche batterio in più. Anche qui un colpo a cerchio, uno la botte, una cosa incredibile. Giustamente Oliviero Bea, che è presente in studio, commenta in questo modo. Signor Oliviero Bea, senti. Giovanni, c'è un termine che lascio qui sospeso nell'aria che si chiama zoerastia, non arriveremo a quel punto. Io ho persino una figlia veterinaria, quindi modestamente. Allora però, Parenzo, io vorrei smettere di parlare di immigrazione nell'ultima parte della trasmissione, perché sì, ti vorrei presentare una persona che è, sì, come dire, uno dei simboli dell'immigrazione, anzi non dell'immigrazione, dell'integrazione direi, dell'integrazione. Non è un personaggio della politica, non è un personaggio, è un personaggio del mondo dello spettacolo, una new entry nel mondo dello spettacolo. È una transessuale, non è una novità per noi naturalmente, no, come sai, appunto, no? Stavo per dire assolutamente, che parteciperà ad un prossimo reality, credo per Sky, se non sbaglio, che si chiama La Fazenda, se non erro, la signorina è molto giovane, credo abbia poco più di 20 anni, se non sbaglio, no? E si chiama Gwendalina Rodriguez. Un abbraccio, come stai? Come stai? Ciao, sta tutti bene, vuoi? Beh, non c'è male, non c'è male. Come va? Come te la passi? Dove ti trovi? A Milano, a Napoli? Perché tu sei brasiliana, ma sei stata adottata da una coppia di napoletani, se non sbaglio, tanti anni fa, no? Sì, sì, no, sono in Puglia perché le registrazioni della Fazenda che andrà in onda su, sì, Oltre TV. Oltre TV? Dunque, Sky, che TV è questa qui? Oltre TV, che TV è? Sky, che cos'è? Sky, una roba di Sky. Programma ideato e prodotto da Antonio Sepe, che mi ha fatto partecipare, mi ha voluto fortemente. Assolutamente, ti ha voluto fortemente. E dunque sono anche in Puglia queste riprese? Sì, sì, sono a Ruffano, ci sta Nina Moritz, Alex Belli. Capito, Parenzo? Bene, ottimo. Bell'ambiente, sì, sì, per carità, no, benissimo. Assolutamente. Allora, cara Gwendalina, tu a 2 anni sei arrivata in Italia adottata, giusto? Sì, sono arrivata in Italia a 2 anni. Ma quando è che ti sei sentita subito? Diciamo, tu com'è il tuo nome originario? Qual è? Non lo dico perché se no, diciamo, me l'hanno chiesto in molti, però non lo dico. Beh, diciamo perché... che non è il mistero di Fatima, diciamo. No, no, vabbè, questo... però è una cosa che non voglio dire perché l'ho tralassato un po' al passato. Diciamo che a 2 anni vengo in Italia, sono arrivata, sì, poi in un orfanotrofio, e questi genitori che non avevano, magari non potevano avere figli, certo, e hanno deciso insieme di adottare un bambino. E poi ti hanno ripudiato, però. E come mai ti hanno? Appena hanno scoperto che eri transessuale, ti hanno mandato via. Non è stata più mamma, è stato papà, diciamo. Ah, tuo padre ti ha praticamente rifiutato in quanto transessuale. Sì, mamma no, però ha condiviso la scelta di papà perché comunque vivendo insieme... Capito, ma a che età praticamente ti hanno allontanato? Che ne so, ti sei allontanata te? Che è successo, cara Gwendalina? Io mi sono allontanata molte volte perché vivere a casa mia era un incubo, diciamo. Ero sempre chiusa nella mia camera. E quando è che ti sei accorta, diciamo, di essere un uomo ma con un praticamente una donna nel corpo di un uomo, ecco? Quando è che ti sei accorta? A 3 anni. Cioè a 3 anni già sapevi... Caspita. Già sapevi praticamente che succedeva a 3 anni, che facevi? No, a 3 anni inizio ad andare all'asilo, mi inizio a mettere i godini, le treccine, portavo un po' i capelli lunghi, non troppo lunghi, inizio ad andare all'asilo e mi davo dei bassetti così con i bambini, le maestre fanno vicino a mia mamma, fanno: signora, guardate che vostro figlio ha degli atteggiamenti molto femminili, portatelo da una psicologa, da qualcosa. E che è successo là? Lo psicologo che ha detto subito, ha capito subito. Sì, lei subito, lei mi ha sposata dall'inizio. Dimmi, racconta. E mia mamma, diciamo che per lei ero sempre il figlio maschio, non se l'ha mai aspettato. Lo so. Amica mia, sai, questi hanno adottato un bambino a 2 anni, eccetera, brasiliano, maschio, eccetera. Sì, però per mia mamma era normale che io giocassi con le Barbie, mi vestivo con i suoi panni. Per lei era normale. Ma a me lo dici, per me è normalissimo, avrebbe dovuto accettarti. Tuo padre, purtroppo, la mentalità è quella che è. Io non lo giudico con il tempo, se ho maturato questa cosa. Anche vedi, perché mi pare molto. Sì. Non lo giudica, però t'ha cacciato in pratica. Sì, fino a un tempo fa non lo potevo vedere né niente. Adesso se riverrebbe, col tempo sono maturato, se ho capito tornasse, che comunque sì, mio padre magari aveva dei genitori un po' antichi, una persona di un certo livello. Ma tu hai fatto qualche cura, eccetera, c'è questa voce così. Ho fatto robe di nascosto. Qualsiasi cosa hai fatto, naturalmente, sì, no? Cure ormonali. Una volta mia madre mi beccò, avevo 11 anni, con una busta di ormoni, si mise a piangere perché disse che portavano dei tumori. Per quanto tempo ti sei prostituita, amica mia? Perché a un certo punto per campare ti sei dovuta prostituire. Hai fatto te lo dico in maniera molto chiara, hai fatto la puttana praticamente. Per quanto tempo? L'ho fatta da 13 anni fino all'età di 18 anni, ancora tuttora, dico la verità. Ma tuttora, ancora ogni tanto ti prostituisci? Non è che mi prostituisco, adesso sono un'accompagnatrice, mi sono alzata un po' di livello. Vabbè, fai diciamo la escort, diciamo, no? Sì, adesso sì. Cioè, quanto prendi a serate? Se uno ti vuole per una serata intera, quanto riesci a strappare? Un migliaio? 30 minuti, 500 euro. Il 31esimo minuto o altri 500 oppure me ne vado. Amici, è una storia triste. 500 fondo, euro no? Ogni 30 minuti. La mitica però lavoro nelle aule degli hotel, non è che lavoro a casa mia. È triste, è una storia molto perché triste. Perché questa sta bellissima, che triste, sta da Dio. È una storia molto triste. Dai. Come ti senti? Scusa, stai benissimo o no? Guarda, i miei soldi nel bene e nel male mi servono perché soldi è triste, vedi, chiaro. La storia è triste. Piacciono a tutti, però diciamo vivendo a Milano, conoscendo varie persone, lavoro ho il permesso per lavorare negli hotel in Svizzera. Dunque tu l'operazione non la fai, perché figuriamoci se non c'è l'operazione, se te fai l'operazione. Amica mia, è tutto finito senza con l'operazione. Beh, no? Certo, è la cosa più bella, è così. Gli uomini di oggi vogliono una trasgressione. Anzi, a me mi fanno ridere quando magari in strada fanno zio, quelle trans così, con la magari ti giudicano, ti parlano male oppure si fanno i brazzetti mentre ti vedono per strada, perché io poi sono una che di mattina scendo a fregarmene niente, a differenza di altre persone. Sei praticamente vai in giro come se fosse la notte, diciamo, no? Gonne cortissime, cose, qua pisello quasi di fuori. Di mattina devo dire la verità, sono molto femminile. Ma tu sei un trans attivo, cioè agli uomini piace. Entriamo un po' nel tecnico. Minimamente, cioè sei molto attivo. Vabbè, io quando mi chiamano, tipo, dicono bella, di dove sei? Io faccio amore, sono brasiliana, sono attiva e passiva, rapporto completo, gli dico il prezzo con calma e senza fretta. Ma invece non è assolutamente così, perché non faccio nemmeno la passiva, perché la maggior parte dei clienti, anzi a volte non scopo nemmeno, perché la maggior parte dei clienti sono tutti magari chi è drogato, chi cioè sono tutti passivi, Sì, loro fanno no, che schifo, io non ho mai avuto rapporto con i trans, fanno fare cose meglio di donne. Amica mia, ma è vero che ti sei fidanzata con un calciatore del Milan? Guarda, allora, io questo calciatore del Milan, che tra l'altro ho tanti amici nel mondo dello spettacolo, ma non perché tipo, conosco le Donatella, conosco varie persone, stando ai parchi a Milano. Sì. E questo calciatore del Milan stava ad una cena che c'era anche vari calciatori, all'improvviso si avvicina, lui non mi prende nemmeno per trans. E allora? Fa a me, fa ciao, ti do un passaggio io ai hotel. E dici va bene, dammi un passaggio tu. E poi avete trombato. Ma io l'ho scoperto dopo che era del Milan. Ma attuale del Milan, vabbè, ma hai detto già che il cognome non lo fai, naturalmente. Nome, no, cognome. Non lo faccio perché non voglio rischiare una querela. Infatti, quando ma siete ancora insieme? Insieme proprio no. Vi frequentate, vi frequentate. Ogni tanto trombate. Ma sai che cos'è? Lui ha detto: se esse il mio nome è finita, è morta lì. Perché? Ma non capisco che è fidanzato, è sposato, che c'ha? non lo so veramente, non mi sono nemmeno interessata, perché se nel caso... Ma com'è, passivo questo qua con te, com'è? Tutte e due? No, molto attivo. Molto attivo. gli piace poi essere passivo o attivo a questo qua, questo giocatore del Milan? Attivissimo, diciamo. Attivissimo. È molto pauroso. Molto pauroso di cosa? Ah, di subire, diciamo, di subire la penetration, diciamo, no? No, no, è molto pauroso che, diciamo, se lo vedi nudo dici, oh mamma, so paura, adesso vado via. Cioè, non ho capito. Vabbè, diciamo che è molto dotato, dai. Ah, lui è dotato. Ti do un indizio. No, che è di colore. È di colore pure, vabbè, diciamola tutta. Di colore molto dotato, vabbè, giovane? Sì, giovane. Giovane, di colore molto. Somiglia a Ballotelli, ma non è Ballotelli. Vabbè, ma sarà Niang, dai, è l'unico che è Niang. Per forza, scusa, amica mia. Non lo so. Non lo sai. Comunque, ogni tanto vi frequentate. Senti, sì, vabbè, che ti devo dire? È una storia bellissima, è una storia molto fantastica. Triste, molto ma triste. Perché è triste? Gli piace triste, prostituirsi? Triste. Non ho capito qual è il problema. Perché ti non lo vorrebbe ti fare? Piace prostituirsi? Ti piace no, prostituirti? No, vorrebbe o no? Fare dell'altro, è chiaro, lo fa allora, per guadagnare. Diciamo che comunque non è che mi piace prostituirmi. Diciamo è chiaro, dai. Oggigiorno trovare un lavoro da trans è impossibile. È difficile, certo. Adesso fai questo reality. È una vediamo. Storia triste, ha ragione. Ma non è una storia terribile. Triste, la senti che ride, scherza, eccetera. Ride, dai. Scherza, ma che guarda, deve fare? Io ma... per la storia che ho avuto, diciamo, io non, né mi butto a terra né mi vittimizzo. Pensa che io sono 20 anni, sembra che ne ho 40. lo so, cioè 20 anni quindi... e sembra che parli come una quarantena. Vabbè, amica mia, faremo una seconda puntata della tua vita, che è molto interessante. Ma poi andrò in un altro reality, andrò in un reality. Facciamo tutto, ti abbraccio fortissimo, mi raccomando, non sentirti, come dice Parenzo, una persona poco di buono, non sentirti, fai il lavoro che in questo momento fai, il lavoro che fai, dai, ti abbraccio, ciao. Crociani, stasera avete rotto proprio i coglioni. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Siamo ad alti livelli qua, eh.